وقتی مرولی تفری دستان نزن زدی وردان و جیل استید لبن ساعتی امور میگر نالی قدی رو بادوگار دوستوی چگام بارن بریلاند تو بمیسی تو تگازی ماریا فورت چگام ناری نستیم فرنا Andida, tu se agosa chucar na la morami. Senti de non fosse niente, a fai sendo rimortando. Inna tutte la sruce camaraia. Dormi, che non posso bisciotta. Amore mia, st'amore nostro è forte, mai nessuno va a spezzare. Guardando sempre stile, penso a te, capo un'ora a semana, te posso di vicino, ma stivo tutte basse, camarai. E mi giuro di indogare, e mi fanno compagnia ogni momento. Cosa tu carnal amoroni senza di non posso niente ma fai sentire importante dinda tutte vasro scamara dormi tieno quasi di sotto viene ca tu si odosci tu si bene tu scrivi le canzoni dedicata a te, ah, sono dedicata a te.